Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. La crisi del Monte dei Paschi di Siena, al centro delle cronache finanziarie di questi giorni, riporta in primissimo piano il tema della tutela del risparmio, che è sancito dalla nostra Costituzione, ma anche degli strumenti che nel complesso intreccio tra normative nazionali ed europee possono essere messi in campo per garantire la stabilità dell'intero sistema del credito. È una delle lezioni della grande crisi esplosa negli Stati Uniti nel 2007 con il fallimento di una grande banca d'affari come Lehman Brothers e che nel 2009 ha portato alla bancarotta negli Stati Uniti di altre 31 banche. In Europa si è assistito a vere e proprie nazionalizzazioni, come nel caso della britannica Northern Rock, oppure a massicci interventi statali, come nel caso delle casse di risparmio tedesche. Ma torniamo al Monte dei Paschi di Siena, che è la più antica banca del mondo. Il Monte dei Paschi di Siena nasce nel 1472 come Monte Pio, per volere delle magistrature della Repubblica di Siena, con l'obiettivo di sostenere le classi più disagiate della popolazione in un momento particolarmente difficile per l'economia locale. Nei decenni successivi, in linea con le tradizioni commerciali e creditizie della città di Siena, l'attività del monte subì una rapida evoluzione verso attività tipicamente bancarie, soprattutto in seguito alle riforme del 1568 e del 1624. In particolare, lo statuto del 1624 legò ancora più strettamente l'attività del monte all'economia dell'area di insediamento. Il Granduca Ferdinando II di Toscana concesse ai depositanti del monte la garanzia dello Stato, vincolando a tale scopo le rendite dei pascoli demaniali della Maremma, i cosiddetti paschi. Il Monte dei Paschi estese gradatamente la sua attività ad aree sempre più vaste della Toscana e al momento dell'unificazione d'Italia si presentò come una delle più solide strutture bancarie nazionali, iniziando nuove attività, tra cui il credito fondiario, prima esperienza in Italia. Nel 1936 alla banca viene riconosciuta la natura giuridica pubblicistica. Viene adottato un nuovo statuto che, pur con diverse successive modifiche, rimane in vigore fino al 1995. La crisi del Monte dei Paschi è storia recente, affonda le sue cause nell'acquisizione di Antonveneta nel 2008, con responsabilità che saranno accertate in sede giudiziaria. Per finanziare l'acquisizione, la banca senese varò un aumento di capitale da 9 miliardi di euro, di cui 5,8 a carico degli azionisti. Da qui partono i guai recenti del Monte dei Paschi, ma nella lunga storia della banca senese non è la prima crisi con cui ci si è trovati a fare i conti. C'è un lontano precedente che si colloca tra la fine del 200 e gli inizi del 300. Ne parliamo questa sera con Amedeo Feniello, storico del Medioevo e autore di diversi saggi, tra cui ricordiamo il bel libro Dalle lacrime di Sibille, storia degli uomini che inventarono la banca, pubblicato dalla Terza. Il professor Feniello è con noi in studio questa sera. Buonasera. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Allora, il precedente, raccontiamolo un po' ai nostri ascoltatori. Il precedente è questo, che non voglio dire che i senesi siano sempre dei peccatori nei confronti della vita finanziaria e bancaria. Certamente il Banco dei Bonsignori, la Gran Tavola dei Bonsignori, che nel corso del 200 è una delle principali banche internazionali, il grande modello da cui traggono esempio poi i Bardi, i Peruzzi, i Fiorentini, e che era uno dei grandi banchi che si interessava alla raccolta delle decime per il papato. A un certo punto si trova di fronte ad un ammanco di cassa di proporzioni veramente incredibili. Si parla addirittura di 250.000 fiorini di ammanco. Una cifra enorme per l'epoca. Una cifra enorme. Si deve pensare che con una cifra del genere si poteva dar da mangiare per un anno a circa 300.000 persone all'epoca, dai calcoli di una professoressa senese, Gabriella Piccinni. Ebbene, a questo punto il banco crolla in maniera veramente vorticosa, trascinando dietro di sé tutta l'intera città, l'economia cittadina crolla a seguito di questo gravissimo tonfo, di questo gravissimo crack che vive il Banco dei Bonsignori. A quel punto Siena stessa, che era uno dei grandi centri finanziari europei, perde il proprio prestigio, perde la propria centralità a scapito di altre potenze economiche emergenti, fra cui la più grande, Firenze. Ecco, erano ovviamente altri tempi, certamente non ci auguriamo che finisca così anche in questo caso, però comunque la lezione della storia è da tener conto, è da tener presente, perché ci sono delle, anche se lontane, somiglianze. Sì, la somiglianza sta soprattutto in una cosa molto molto particolare, che la città subì il crollo e soprattutto lo Stato Pontificio richiese il pagamento del debito ben 40 anni dopo, dopo il 1307, dopo l'anno del crack, quando alcuni legati pontifici si recarono a Siena chiedendo agli eredi del Banco Bonsignori il pagamento dei 250.000 fiorini, il che provocò un vero caos all'interno della città. Lo stesso governo cittadino intervenne per cercare di bloccare questo intervento, anche perché coinvolgeva gente che con questo crack non aveva niente a che vedere, erano gli eredi degli eredi degli eredi, e con uno shock incredibile che coinvolse l'intera società urbana a diversi livelli, e alla fine si risolse il tutto con un compromesso a cui si giunse col pagamento di circa 16.000 fiorini, cioè quindi una cifra molto più ridotta rispetto a quella iniziale, ma che comunque rappresentava per una città che già aveva subito un grosso collasso finanziario una botta veramente tremenda, da cui fece molta fatica poi Siena a riprendersi. Ma certamente non è l'unico grande fallimento delle banche medievali trecentesche. E infatti poi, come abbiamo raccontato, il Monte dei Paschi di Siena nascerà nel 1472, ma come monte. Esatto, con un'altra natura, una natura completamente differente. Però sì, nel 300 assistiamo a numerose crisi finanziarie, in particolare quella del 1330, se non ricordo male. Tra il 1330 poi ce ne sono diverse, la più grossa è quella degli anni 40, che coinvolge i banchi Bardi, Peruzzi e Acciaioli, che è veramente il grande, il più grande collasso finanziario della storia medievale, perché non era ben presente nella cultura del tempo l'idea che fosse consustanziale alla vita delle banche l'idea stessa di crack. Fa parte della vicenda stessa di una banca l'idea che si possa prevedere un crack finanziario. All'epoca non si era non si conosceva questo dettaglio, piccolissimo dettaglio, che invece diventa un vero e proprio con un effetto domino incredibile, che coinvolge tutta la società europea, da un capo all'altro, dall'Inghilterra fino alla penisola ellenica, tutti quanti vengono colpiti da questa caduta precipitosa dei banchi fiorentini. Infatti il 300 è un periodo che vale la pena di approfondire e di studiare, anche perché dal suo libro, Dalle lacrime di Sibyl, storia degli uomini che inventarono la banca, quindi vuol dire che se vogliamo capire qualcosa di quello che accade oggi, forse una rilettura di quegli anni non farebbe male. No, no, sicuramente, non voglio fare pubblicità diretta, no, certo. ma sicuramente tornare ancora alle radici del sistema bancario, cercare di capire quali furono i moventi e soprattutto capire anche quali furono i correttivi che vennero adoperati all'indomani delle grandi cadute delle banche fiorentine, è molto importante per comprendere quali potrebbero essere anche gli sviluppi futuri della nostra situazione, cioè capire quali possono essere poi gli adattamenti funzionali che il nostro sistema potrà trovare per cercare di non ricadere in crisi così violente, come d'altronde è stato dopo il 29. Anche adesso i correttivi si stanno sperimentando in questo momento. Nel caso delle banche trecentesche, la grande idea, la grande innovazione fu la holding, per prima adoperata da un signore che si chiama Francesco Di Marco Datini, il famoso mercante di Prato, che crea delle scatole chiuse, tante scatole chiuse, dove se nel caso ne crollasse una, le altre si sarebbero potute salvare, che è un modello che viene seguito per esempio dal grande Banco Medici nel corso del 400. nel 200 e nel 300 questo tipo di modalità operativa di struttura finanziaria non era conosciuto, non era prevedibile. È chiaro che invece nel secondo 300 e nel 400 il riadattamento funzionale innova e inventa un sistema come quello della holding. Anche perché c'è un elemento che bisogna tener conto e che forse si caratterizza un po' più negli anni successivi al 300, forse più 400-500, che è del forte, come dire, radicamento di queste strutture creditizie nel territorio, e quindi i crack che si verificano hanno un effetto sociale molto forte. Assolutamente. Per esempio il crollo dei banchi fiorentini coinvolge decine di banchi più piccoli che erano legati, coinvolge banchi non soltanto fiorentini ma anche veneziani, oppure entità economiche che erano al di fuori del contesto toscano, anche perché all'epoca bisogna pensare ad un mercato molto più integrato, molto più complementare, di carattere internazionale. Sì. Quindi se qualcosa succedeva a Firenze aveva degli effetti anche in tutto il contesto europeo. E questa è anche una lezione chiarissima, sì. Oggi è molto più chiaro questo aspetto. Che è quello che noi chiamiamo oggi il rischio dell'effetto domino. L'effetto domino, assolutamente. Che si tende e si vuole evitare nel caso di una crisi di una grande banca europea. Bene, grazie, ringraziamo il professor Feniello per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie per l'invito. E per averci aiutato a capire le origini lontane di questi problemi, di queste crisi. Buona serata a tutti. Buonasera.